Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Il dilemma del Partito Democratico, reggenza o congresso? Due anime a confronto e a decidere sarà l'Assemblea Costituente. La Confindustria incalza il governo, la Marcegaglia, non sono un corvo, si faccia di più. UBS svelerà i nomi degli americani evasori, la Svizzera verso l'addio al segreto bancario. A Guidoni arrivano le ronde, ma della protezione civile, in attesa del decreto contro le violenze. Il chiodo, impiantatelo al novantenne. Ecco le intercettazioni shock dell'indagine sulla clinica Santa Rita. Domani alla Camera il disegno di legge che stabilisce anche che cosa si potrà pubblicare delle intercettazioni. Sanzioni per gli editori, dice Radio 24 il ministro Alfano. Woody Allen perde la sua voce italiana. Al bagaglino una delle sue anime. È morto Oreste Lionello. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. La Repubblica, LK, la vignetta, il PD in cerca di un capo, ma anche di una coda. E così apriamo oggi la nostra edizione extra large del giornale. Partito Democratico alla svolta, alla ricerca di un capo, come dice la vignetta, ma più in generale di un dopo Veltroni. Allora, che succede? Andiamo a Roma da Elisabetta Fiorito. Dopo le dimissioni di Veltroni, discussione aperta all'interno del Partito Democratico sulla scelta delle primarie o del congresso, ma sembra più probabile, come avete annunciato voi da studio, la strada della reggenza di Dario Franceschini. Questo almeno dovrebbe decidere l'Assemblea Nazionale del Partito di sabato convocata a Roma. Per Arturo Parisi bisogna andare alle primarie subito, indietro non si torna. Per Rosi Bindi ed Enrico Letta invece bisogna fare il congresso, ma non ora. Secondo la Bindi ce ne vuole uno vero, non dominato dalla preoccupazione delle elezioni. Meglio rimandare tutto a dopo le europee e alle amministrative. Enrico Letta concorda, ammette che il Partito Democratico ha una storia inanellata di tanti errori, tra i quali la mancanza di amalgama. Letta non esclude la sua candidatura, ma ora dice non è il momento. Da parte della maggioranza invece il problema è la mancanza di riferimento. Umberto Bossi dice chiaramente non sappiamo più con chi trattare. E poi il premier Silvio Berlusconi voleva telefonare a Veltroni, ma al Presidente del Consiglio non è piaciuto il discorso di addio del segretario del PD che lo ha attaccato e quindi ha rinunciato alla telefonata. Questa è la novità da Roma, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, ma chi deciderà dunque che strada deve prendere il Partito Democratico? L'Assemblea Costituente, dicevamo, ed è composta da 3.000 persone. Che cosa sono? Cosa li attende? Sentiamo in questa scheda. Li hanno fatti ieri sera. Secondo previsioni realistiche, all'Assemblea Nazionale del PD potrebbero esserci non più di 700-800 delegati, per effetto della disaffezione, ma anche perché nessuno intende portare a Roma una folla oceanica. Un esito pessimo sul piano dell'immagine, ma funzionale a mantenere il delicato equilibrio politico accettato da tutti i maggiorenti come male minore, Dario Franceschini segretario per portare il PD al congresso di ottobre. Le dimissioni di Walter Veltroni non hanno solo scoperchiato la pentola dei malumori dei militanti e dei simpatizzanti che in migliaia si confrontano in rete sul dopo. Hanno anche obbligato tutte le componenti da mesi in fibrillazione a rifare i conti, a sospendere i calcoli e a rivedere le previsioni. Perché lo statuto del PD, come lamenta oggi sul Corriere Franco Marini, prevede che a scegliere il segretario per il resto del mandato sia un'assemblea che oggi conta poco meno di 3.000 membri. Una platea incontrollabile, tanto più in un momento in cui nessuna corrente ha una maggioranza o può sperare di averne una. Da Lemiani, orfani di Veltroni, popolari di Marini, popolari di Franceschini, rutelliani, prodiani, amici di Letta e così via. Per il dopo si parla di un accordo temporaneo fra Franceschini e Bersani e D'Alema, a cui si potrebbe opporre un asse, i due si vedono oggi, tra Letta e Rutelli. Ma lo scontro è rimandato, con l'eccezione forse di Parisi, da cui ci si attende un intervento vibrante sabato. Se però la partecipazione all'assemblea fosse più ampia, tutto potrebbe saltare e per la nomenclatura si profilerebbe il rischio peggiore, un congresso anticipato. Paolo Piacenza, GR24, il Sole 24 Ore. E ad attaccare intanto è Antonio Di Pietro, una conferenza stampa che si è conclusa proprio un istante fa e l'argomento è quello della RAI, ennesima spartizione della RAI, omicidio dell'informazione, parole dure quelle usate da Antonio Di Pietro contro le nomine del nuovo CDA a Montecitorio. In questo governo di regime abbiamo assistito all'ennesima spartizione e lottizzazione della RAI, attaccato con quest'atto l'informazione è stata mazzata. Questo significa che quando si tratta di gestire il poltronificio, le varie forze politiche diventano un unico partito. E ora andiamo con la cronaca, perché c'è stata un'operazione antidroga scattata questa mattina in Campania che dovrebbe svelare i risvolti, altri risvolti della strage di Castelvolturno. Importavano la droga dal Mali e dalla Costa d'Avorio e attraverso la rotta parigina la smerciavano in Italia, soprattutto in Campania, a Castelvolturno. 32 narcotrafficanti sono stati arrestati oggi dai carabinieri di Caserta nel corso di un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Cocaina ed eroina in ovuli venivano ingerite dai corrieri e arrivavano così nel nostro paese. Il commercio degli stupefacenti nel casertano avveniva con il consenso dei casalesi, ai quali l'organizzazione, composta principalmente da extracomunitari, pagava il pizzo. E proprio questo aspetto spiegherebbe il movente della strage di Castelvolturno dello scorso 17 settembre. I sei immigrati sarebbero stati assassinati dal gruppo di fuoco capeggiato da Giuseppe Setola per essersi rifiutati di pagare la tangente al clan. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E andiamo ora invece a Lampedusa. Che succede il giorno dopo l'incendio nel centro di accoglienza? Lo chiediamo a Giampiero Casagni. Buongiorno. Buongiorno. E innanzitutto, ecco, si è chiarito quali sono state le dinamiche dell'incidente? Sì, si è chiarito. C'è stata questa protesta dei tunisini che, diciamo, hanno contestato a loro alcuni connazionali che volevano riprendere il passo. Ne è nata una discussione accesa, sono intervenute le forze dell'ordine, poi sono stati usati i manganelli e lanciati dei lacrimogeni, e alla fine c'è stata la rivolta ed è scoppiato l'incendio. Oggi, dopo comunque le proteste che hanno portato all'incendio del padiglione, i tunisini trattenuti in attesa del rimpatrio, appunto, la situazione è tornata sotto controllo. Nel corso della notte sono stati trasferiti in vari altri centri di accoglienza a Torino, Cagliari e Gorizia 160 migranti e altri 120 lasceranno l'isola nella giornata di oggi. Ecco Giampiero, infatti a questo punto ci chiediamo, visto che anche le nuove norme in arrivo dovrebbero aumentare i tempi di permanenza nei centri di identificazione, quando sarà di nuovo operativo il centro di Lampedusa, quali sono le condizioni oggi? Allora, il padiglione è completamente distrutto dalle fiamme, disponeva circa 280 posti letto, quindi i trasferimenti disposti dal Viminale sono serviti per evitare ulteriori disagi. Si parla di tempi brevi, anche se il sindaco oggi ribadisce la necessità di svuotare il centro per metterlo subito in sicurezza, perché pare che comunque non possano essere così brevi i tempi, e soprattutto si chiede se ci sono nuovi sbarchi di immigrati, dove li mettiamo, per cui lui chiede che il centro venga svuotato completamente in maniera tale da rendere i lavori più velocemente possibile, ultimare i lavori. Stasera il sindaco terrà un comizio nella piazza principale dell'isola per fare il punto sulla situazione e ribadire che l'idea del CIE è fallimentare. Degli incidenti di ieri si sono anche occupati gli organi di stampa tunisini con ampio risalto, ma anche la procura di Agrigento, che da tempo indagava sulle condizioni di vita dei migranti all'interno della struttura. E tra l'altro sembra che qualcuno abbia preso ad esempio Malta, perché quello che è successo a Lampedusa, perché Anna è successa una cosa analoga, perché poliziotti e militari in assetto antisommossa proprio in questi minuti stanno fronteggiando due rivolte quasi identiche divampate contemporaneamente nei due centri di detenzione per migranti di Malta. Anche in questo caso, come è avvenuto a Lampedusa, gli extracomunitari hanno dato fuoco ai locali delle due strutture. E grazie anche a Giampiero Casagni. E intanto, in attesa domani del nuovo decreto sicurezza contro la violenza sulle donne a Guidonia, teatro, ricorderete, della violenza contro una giovane coppia, la notte scorsa sono partite le prime ronde, non di cittadini, ma della protezione civile. Roberta Pellegatta si è fatta raccontare come è andata questa prima notte dal dirigente della protezione civile di Guidonia, Costanza Di Paolo. Costanzo Di Paolo. La notte scorsa, o perlomeno ieri sera, perché nella notte profonda ancora non l'abbiamo fatta, però ieri sera, quando le ultime persone tornavano dal lavoro, i pendolari, perché a volte rimangono delle donne in un parcheggio isolato. Il controllo già partirà anche questa sera. Per adesso tuteleremo un po' le stazioni dove praticamente maggiormente rimangono donne isolate perché devono andare a riprendere la macchina, perché lavorano. Successivamente faremo invece durante la notte i controlli nelle zone dove si possono trovare appunto persone che hanno necessità di tornare a casa e magari lo debbono fare da sole. Siccome qui, soprattutto Guidonia, per gli eventi che ci sono stati, c'è molto malcontento, c'è molto fermento, noi abbiamo voluto intercettare qualsiasi tipo di comportamento xenofobo. Siccome già sera si cominciava a parlare di ronde cittadine. Abbiamo pensato di mettere disponibili i nostri mezzi, 4 autovetture con i lampeggianti, con tutto il resto, per pattugliare il territorio nei punti sensibili. Noi abbiamo binocoli all'infrarossi, abbiamo telecamere che possono guardare di notte, macchine fotografiche. Chiari. Ma non avete armi? No, assolutamente no, ma neanche ci servono. Di fronte a eventuali reati non facciamo altro che monitorare la situazione, nel frattempo far intervenire le forze dell'ordine e collaborare con le stesse. E invece a Bologna la circolare di Maroni allegata al decreto sicurezza ha prodotto un altro risultato. La città risulta praticamente blindata nel fine settimana. È così? Che succede? Andiamo a Bologna da Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Qui a Bologna adesso sono vietate tutte le manifestazioni, anche quelle politiche, nel centro storico nel fine settimana. Questa è una decisione del prefetto della città Angelo Tranfaglia, che applica così il decreto sicurezza del ministro dell'interno Roberto Maroni. L'obiettivo del prefetto è quello di preservare il patrimonio storico, culturale, cittadino e soprattutto quello di rendere il centro storico più vivibile nel weekend per tutta la cittadinanza. Quindi sono blindate Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno, ma anche Piazza Renzo, Via Santo Stefano e anche la cosiddetta T, che è l'intersezione delle vie Ugo Bassi, Rizzoli e Indipendenza, che sono proprio il cuore della città. Sono invece escluse dal provvedimento tutte le cerimonie religiose e anche le commemorazioni storiche. Però la questura ha detto inoltre di voler valutare ancora più attentamente anche quelle manifestazioni che si svolgono fuori dal centro, ma che sono considerate quelle più a rischio. Il periodo di prova di questo provvedimento finirà comunque prima dell'apertura della campagna elettorale. Infatti a giugno a Bologna si voterà per il nuovo sindaco che dovrà prendere il posto di Sergio Cofferati. Solo a quel punto la regolamentazione delle manifestazioni sarà fatta in base alla disciplina che regola la propaganda elettorale. Il decreto ovviamente ha sollevato anche qualche protesta fra i politici. Per esempio si oppone in prima linea a Valerio Monteventi, che è il candidato sindaco della lista No Global Bologna Città Aperta, e ha dichiarato che non si adeguerà al provvedimento. E da Bologna è tutto. E grazie anche a Maria Chiara Grandis. Ora un doveroso addio ad un artista che ha segnato la storia del costume italiano, Oreste Lionello. È morto questa mattina, aveva 81 anni. Secondo te la fisica quantistica ha la risposta? Scusa, ma a che cosa mi può servire che tempo e spazio siano esattamente la stessa cosa? Cioè, che chiedo a uno che ora è e lui mi risponde 6 chilometri. Ma che roba è? Era sua la voce italiana di Woody Allen, ma ha prestato la sua inconfondibile ugola anche a Groucho Marx, Jerry Lewis, Gene Wilder, Peter Sellers, Charlie Chaplin, Roman Polanski e molti altri ancora. E memorabili sono state le sue interpretazioni di Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi al Bagaglino, dove ha fatto cabaret per molti anni. Un'arte in cui si è distinto sempre, oltre al doppiaggio, tanto da essere considerato uno dei padri del cabaret nostrano dal dopoguerra. Era nato a Rodi il 18 aprile del 1927 e ha iniziato la sua carriera come attore di teatro. Dopo l'esordio nei primi anni 50 nella compagnia comico-musicale di Radio Roma, debuttò in TV con la serie di film per ragazzi Il Marziano Filippo. Negli anni 60 partecipò anche ad alcuni episodi delle inchieste del commissario Maigret in televisione a fianco di Gino Cervi e fece anche cinema. Sempre un po' surreale sul palco, nella vita ha dimostrato una grande umanità e sensibilità e amava ricordare come dietro i suoi personaggi ci fosse anche il grande lavoro di molte altre persone. Amo tutti quanti i personaggi che sono stati fatti, perché anche se passano 30 secondi c'è dietro l'applicazione del costumista, delle sarte, delle tintorie che te li hanno lavati, cioè ognuno ha in sé non soltanto la figura del personaggio ma anche il lavoro di tutti quelli che contribuiscono a che sia. Tutti lo chiamavano maestro, ma per l'attore Leo Gullotta, che con lui ha condiviso quasi 40 anni di cammino professionale, Oreste Lionello era un bambino vestito da grande, sempre con il gusto del graffio e dell'ironia. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:19, i titoli di oggi di GR Extra Large, ma subito una notizia appena battuta dall'agenzia: sono libere le due suore italiane rapite in Somalia. Cercheremo di darvi aggiornamenti appena possibile. Il Partito Democratico verso la reggenza Franceschini. A decidere sarà l'Assemblea Costituente dei 3.000. L'ipotesi più accreditata è un congresso dopo il voto europeo. Rimanda le accuse al mittente il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, rispondendo così questa mattina al ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Pare di non essere un corvo, ma anzi di essere una delle poche che ancora crede che a fine 2009 si possa vedere un po' di miglioramento in questo paese, e spingiamo affinché si possa uscire da questa crisi nel prima possibile. Sono più di 20 gli immigrati ospiti del centro d'accoglienza di Lampedusa, la cui posizione è al vaglio degli agenti dopo la rivolta e l'incendio di ieri. Ancora nessun arresto, ma è questione di ore. Tra la notte scorsa e oggi sono stati trasferiti in altri centri 280 persone. UBS ammette di aver aiutato degli americani a evadere le tasse, si accorda con le autorità statunitensi, pagherà 780 milioni di dollari e fornirà i nomi degli americani coinvolti. Ma il governo svizzero smentisce, non sarà abolito il segreto bancario. Domani in aula alla Camera il disegno di legge sulle intercettazioni, sanzioni pecuniarie per gli editori più che carcere per i giornalisti, propone il ministro Alfano a Radio 24. Tra poco vi faremo ascoltare le intercettazioni scioccanti dell'indagine sulla clinica Santa Rita. A 3 mesi dall'inizio del processo è atteso per oggi il verdetto per l'omicidio di Anna Politkovskaja, giornalista uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006. I giurati sono in camera di consiglio. È morto a Roma dopo una lunga malattia Oreste Lionello. L'attore aveva 81 anni, voce italiana di Woody Allen e anima del Bagaglino. Così l'ha ricordato poco fa dall'Ariston Paolo Bonolis. Questa sera, lo sapete tutti, ieri è venuto a mancare Oreste Lionello e questa sera mi auguro che il teatro Ariston abbia il medesimo tributo che gli state facendo voi in questo momento. Mondiale di sci di fondo, subito una medaglia per gli azzurri, argento per Marianna Longa. Intercettazioni scioccanti, dicevamo, quelle che Pierpaolo Brega Massone, l'ex primario di chirurgia toracica della clinica Santa Rita di Milano, ascoltava fissando un punto lontano nell'aula bunker di Piazza Filangieri mentre risuonava la voce di una sua collega che diceva: se controllano le cartelle lo sai che il principe di queste cose è Brega Massone, lui, il proprietario della clinica Pipitone, non può far venire a lavorare dei banditi che poi ci fanno finire sui giornali, altro che truffa, questi sono criminali. Parole intercettate dai militari della Guardia di Finanza nel luglio 2007, che hanno dato vita al processo in corso sulle truffe al sistema sanitario, ma anche e soprattutto sulle lesioni ai pazienti finiti in sala operatoria per aumentare gli stipendi dei medici pagati in base alla produttività. In questa telefonata Renato Scarponi, ex capo dell'equipe di ortopedia alla Santa Rita, arrestato poi il 9 giugno scorso, discute con una dipendente amministrativa di un chiodo ortopedico aperto per sbaglio. Venerdì scorso è stato aperto erroneamente durante il posizionamento di un chiodo PFN lungo, una lateralità di chiodo sbagliato sinistro al posto del destro. Allora Filippi ha detto: apritemi quel chiodo, l'infermiere ha preso in mano quello con la S, nessuno se n'è accorto, l'ha aperto, nessuno l'ha toccato con i guanti sporchi di sangue, però c'è una diatriba perché la sterilizzazione non lo può risterilizzare perché arrivano in confezione sterile, la Sintes, ci ho appena parlato, non me lo ritira perché se loro dice dovessero ritirare tutti i chiodi che si aprono per sbaglio andrebbero in malora. Allora io ho già parlato con Filippi, lui mi ha anche scritto 2 righe dicendo che il chiodo è stato aperto con i guanti sterili, non è stato contaminato col materiale organico. Lo rimpiantiamo, Stefania. Ma Battista non ve lo sterilizza, cos'è che rimpiantate? Se volete parlare voi con Battista, io ci ho già parlato. Beh certo, mica lo butterà via. Io ascolti una cosa, io ho detto solo a Filippi, l'ho chiamato per sensibilizzarlo e per dire state attenti quando aprite una cosa perché costa 455 euro più IVA. Io, se vuoi, sotto la mia responsabilità lo rimpianto subito in qualsiasi malato. Subito quando capita la misura giusta. Esatto, però te lo rimpianto subito alla prima frattura per trocanterica. Ho capito, ma se Battista non lo sterilizza. No, per il futuro, perché si deve opporre? Scusi, è come una pinza chirurgica. No, non è la stessa cosa, perché questo è un impianto che rimane sul paziente e l'etichetta va messa in cartella clinica. Ma se il malato di 90 anni, 95 anni, ha una brevissima aspettativa di vita... Allora, io ho fatto lo stesso discorso tra di me, ho detto che un paziente molto anziano, tutto sommato, si potrebbe anche... 90 anni abbiamo ogni giorno, Vabbè. Dai questo ordinativo qua e se vuoi lo faccio io, va bene? Ma ordinativo, io ci devo riparlare con Battista, ordinativo. E dica, ha parlato con me che mi prendo io la responsabilità. Sì, non so se basta che si prende lei la responsabilità. intercettazioni, queste sulla clinica, vicenda della clinica, cosiddetta clinica degli orrori, la clinica milanese Santa Rita, pubblicate questa mattina dal sito online della Repubblica. Il governo intanto va avanti sul provvedimento che vuole limitare le intercettazioni. Ieri critiche sono arrivate durante l'audizione alla Camera dall'Associazione Nazionale Magistrati, secondo la quale anche nelle indagini sulla pedofilia le modifiche della disciplina sulle intercettazioni potranno avere effetti gravissimi. L'esecutivo però non ha ancora deciso se appoggiare l'emendamento parlamentare che prevede il carcere per i giornalisti. Così il ministro della giustizia Alfano oggi all'Elefante su Radio 24. La linea del governo è stata quella di puntare di più sulle sanzioni pecuniarie anche per quanto riguarda gli editori invece che sul carcere nei confronti dei giornalisti. È un emendamento di promanazione parlamentare, come lei ha ben spiegato nella sua premessa, ed è stato approvato in commissione non senza contrasti, tant'è che ieri durante la valutazione di tale emendamento e nell'ambito della commissione cultura si sono levate delle voci contro anche di esponenti del PDL, quindi noi ci affideremo anche alla libera valutazione parlamentare. Si fa un gran parlare della nostra Costituzione, che è la carta fondamentale dei nostri diritti, e non si cita mai l'articolo 15, che non a caso non è il 136, ma è nella parte prima, quella dei diritti e dei doveri specificamente riconosciuti ai cittadini. E l'articolo 15 della nostra Costituzione così recita: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Cioè nessuno ricorda mai che vi è un articolo della Costituzione che così solennemente tutela il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza. Qui si è verificato un fenomeno che è paragonabile al fatto che ogni mattina ci sia qualcuno che ti apre la corrispondenza. E sulla legge che limita l'uso delle intercettazioni, il commento del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, che ogni giorno firma l'asterisco su Radio 24 alle 8.35 del mattino. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Non c'è dubbio che delle intercettazioni telefoniche sia stato fatto un largo abuso e che in diversi casi siano state pubblicate conversazioni private del tutto ininfluenti ai fini processuali, a volte fatte da persone estranee alle indagini. Ma il disegno di legge che le limita, attualmente in discussione, è una seria minaccia alla sicurezza dei cittadini e alla trasparenza della vita pubblica. Prevedere l'uso delle intercettazioni solo quando si è davanti a gravi indizi di colpevolezza, e non prima, è un regalo alla malavita. Sì, posso fare delle intercettazioni, ma solo quando sono pressoché certo di avere in mano seri indizi di colpevolezza, cioè quasi mai. Come dire ai criminali di ogni genere, intanto scappate, poi ne parliamo. E tutto ciò mentre si parla di maggior rigore nelle indagini, di certezza della pena e persino di ronde. Quanto al divieto di pubblicazione, d'accordo nel limitare e punire gli abusi che ci sono, ma che l'opinione pubblica di una città, mettiamo Milano, non debba sapere che si indaga sulla clinica Santa Rita, quella dove si operavano i pazienti anche per nulla, è un insulto alla libertà del cittadino, prima ancora che alla libertà di stampa. E c'è un successo per l'Italia sportiva, arriva dagli italiani che vanno sugli sci di fondo, Dario Ricci. Sì, buongiorno, iniziano bene per i colori azzurri i mondiali di fondo a Liberec. Marianna Longa, 29 anni, di Livigno, ha conquistato infatti l'argento nella 10 km a tecnica classica. Davanti a lei solo la finlandese Saarinen, che l'ha staccata di poco più di 4 secondi. Bronzo alla polacca Kowalczyk, staccata di 11 secondi. Male invece le altre azzurre in gara, tutte nelle retrovie, la Morder 27esima, ancora più indietro Veronica Cavallar 49esima. Per la Longa l'argento di oggi è veramente il segnale che quella di quest'anno è una grande stagione per lei. Già il 30 gennaio a Rybinsk la nostra azzurra aveva conquistato la prima gara di Coppa del Mondo e altre medaglie potranno arrivare nei prossimi giorni, visto che quella di oggi è solamente l'apertura dei mondiali a Liberec. Per il momento è tutto, a voi la linea. La notizia ve l'abbiamo data in diretta proprio qualche istante fa. Sono libere le due suore italiane che erano state rapite a novembre. Cerchiamo di saperne di più. Valentina Furlanetto, fino ad ora cosa si sa? Allora, si sa molto poco innanzitutto, Anna. Suor Maria Teresa Olivero e suor Caterina Giraudo sarebbero state liberate, secondo la Farnesina, dopo 100 giorni dal loro sequestro, che lo ricordiamo è avvenuto in Kenya. Sono state portate via dalla missione di Eluaki il 9 di novembre, poi sarebbero state portate in Somalia. Un barlume di speranza si era acceso pochi giorni fa, le due suore, secondo fonti come la MISNA, l'agenzia missionaria, avevano parlato per telefono con la comunità Nairobi, avevano detto di stare bene. Non si era avuto certezza della notizia, non abbiamo avuto conferma di questa notizia, ma era questo senz'altro un segnale confortante. In quest'ultimo periodo, tra l'altro, ci sono state diverse marce in Italia e a Cuneo, in particolare la zona da cui provenivano le due sorelle, per la liberazione delle due donne. Ora sembra che ci sia la conferma dalla Farnesina, ma per nuove informazioni e su questa liberazione ci aggiorniamo più tardi. Grazie Valentina Furlanetto. Sì, naturalmente se ci saranno altri dettagli sulla liberazione delle due suore ve li daremo nel corso di Extra Large. 13:36 minuti, le notizie di oggi Extra Large. Rimanda le accuse al mittente il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Non penso di essere un corvo, ma anzi una delle poche che ancora crede che a fine 2009 si possa vedere un po' di miglioramento. Così ha detto questa mattina rispondendo al ministro dello sviluppo Scajola. Libere le due suore italiane rapite a novembre in Kenya. L'annuncio della Farnesina, Maria Teresa Olivero e Caterina Giraudo, di 61 e 67 anni, erano state prelevate al confine con la Somalia. UBS ammette di avere aiutato gli americani a evadere le tasse e si accorda con le autorità statunitensi. Pagherà 780 milioni di dollari e fornirà i nomi degli americani coinvolti, ma la Svizzera smentisce l'abolizione del segreto bancario. Il Partito Democratico verso la reggenza Franceschini. A decidere l'Assemblea Costituente dei 3.000, l'ipotesi più accreditata a un congresso dopo il voto europeo. Domani in aula alla Camera il disegno di legge sulle intercettazioni, sanzioni pecuniarie per gli editori più che carcere per i giornalisti, dice a Radio 24 il ministro Alfano. La linea del governo è stata quella di puntare di più sulle sanzioni pecuniarie anche per quanto riguarda gli editori invece che sul carcere nei confronti dei giornalisti. Non senza contrasti, tant'è che ieri durante la valutazione di tale emendamento e nell'ambito della Commissione Cultura si sono levate delle voci contro, quindi noi ci affideremo anche alla libera valutazione parlamentare. Sono più di 20 gli immigrati ospiti del centro d'accoglienza di Lampedusa, la cui posizione è al vaglio degli agenti dopo la rivolta e l'incendio di ieri. Arresti ancora non ce ne sono, ma sembra essere ormai una questione di ore. Tra la notte scorsa e oggi in tutto verranno trasferite dall'isola circa 280 persone. Si complica il puzzle per la formazione del nuovo governo israeliano. Questa mattina il leader del partito di estrema destra, Lieberman, ago della bilancia, ha posto le sue condizioni: un governo formato dai tre maggiori partiti, ma con presidente non Tzipi Livni, ma Netanyahu. È morto a Roma dopo una lunga malattia Oreste Leonello. L'attore aveva 81 anni, voce italiana di Woody Allen e anima del bagaglino. Sai, Foc, se un tizio sale sul palco a Carnegie Hall e attacca a vomitare, stai tranquillo che troverai sempre qualcuno che la chiama arte. Dicevamo, la risposta del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia alle parole di ieri del ministro Scajola. Andiamo a Milano alla BIT, dove è avvenuto questo scambio di battute con Stefano Totoro. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha voluto rispondere al ministro delle attività produttive Scajola, che ieri aveva additato l'associazione degli industriali come pessimisti e in particolar modo come corvi. Sentiamo le parole di Emma Marcegaglia. Pare di non essere un corvo, ma anzi di essere una delle poche che ancora crede che a fine 2009 si possa vedere un po' di miglioramento in questo paese, e spingiamo affinché si possa uscire da questa crisi nel prima possibile. Il governo può fare di più? Sì, come dire, noi abbiamo fatto alcune proposte specifiche sulle infrastrutture, sul TFR, sul credito, sugli ammortizzatori sociali. Abbiamo riconosciuto che un risultato positivo è stato fatto, quindi sì, noi pensiamo che in un momento come questo, pur riconoscendo il tema del debito come tema essenziale, serva su alcuni temi specifici fare di più, come stanno facendo gli altri paesi europei. Questo dunque il botta risposta a distanza fra il presidente di Confindustria Marcegaglia e il ministro Scajola. Avete sentito anche dalle parole di Emma Marcegaglia, è tornata a parlare appunto del TFR, della proposta di Confindustria di lasciare il TFR in azienda. Vuol dire, ha detto la Marcegaglia, vuol dire 5 miliardi di euro che rimangono in azienda a costituire un fondo di garanzie per garantire soprattutto i crediti sulle piccole imprese. Ovviamente siamo alla BIT, alla Fiera Internazionale del Turismo, e non si, anche da Confindustria appunto si è levata una voce per difendere questo settore che il presidente Marcegaglia ha indicato come molto rilevante all'interno del PIL, vale l'11% del PIL italiano, è uno dei settori, ha detto il presidente di Confindustria, in cui sentiamo di poter crescere. Bisogna dare molta importanza al settore, in primo luogo con un coordinamento di politiche promozionali, e poi chiederemo che in un momento di crisi come questo non ci sia una frammentazione soprattutto nel settore turistico. Per il momento è tutto. Grazie a Stefano Totoro. E intanto quella che arriva dalla Svizzera in qualche modo sì, è una rivoluzione, perlomeno a metà. Stamattina ci siamo svegliati con la sensazione che ci fosse all'orizzonte l'abolizione, pensate, del segreto bancario in Svizzera. Poi c'è stata una smentita, queste indiscrezioni di stampa, c'è stata una smentita poco fa di fonti del governo svizzero, e però una notizia c'è, riguarda UBS. Lino Terlizzi, buongiorno. No, non abbiamo il collegamento in questo momento con Lino Terlizzi. Qualche problema? E allora andiamo avanti con le altre notizie, e forse siamo già in grado di sentire una testimonianza che riguarda le suore, come dicevamo poco fa, liberate in Kenya, le due suore. Sentiamo una voce che arriva grazie all'inviato del TG1 poco fa, mandata in diretta, sentiamo. Sono Giraudo Caterina, grazie a Dio sto proprio bene, sono proprio molto riconoscente. Solo ieri eravamo proprio a KO, proprio sfinite moralmente, invece oggi molto bene, oggi siamo proprio risuscitate, ringraziamo tanto, non abbiamo parole per ringraziare quello che abbiamo trovato al nostro arrivo, già le persone che abbiamo incontrato a Mogadiscio alla partenza, un'accoglienza proprio fraterna che ci ha molto scaldato il cuore, siamo proprio tanto riconoscenti. Sono Maria Teresa Olivero, sto bene, siamo tanto felici di essere qui, tanto felici, tanto, basta. E sul TG1 sta parlando intanto anche il Premier Silvio Berlusconi, sentiamo cosa sta dicendo. In modo globale. Grazie Presidente. Ha terminato Berlusconi. Intervistato al TG1 ha commentato anche proprio la liberazione delle suore liberate, sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro, così il Premier, cercheremo magari di farvelo risentire più tardi. E allora recuperiamo il collegamento con il collega Lino Terlizzi per commentare la notizia che viene dalla Svizzera e riguarda il colosso bancario UBS e anche forse possibili intenzioni della Svizzera di rivedere qualcosa sul segreto bancario, Lino. Sì, naturalmente, buongiorno a tutti, si sta un po' cercando di capire quali sono le conseguenze effettive, perché esistono voci diverse. Il fatto è che l'UBS ha fatto questo accordo con le autorità statunitensi attraverso l'autorità di controllo elvetica sui mercati, per cui pagherà una multa salata per quel che riguarda i suoi errori, così sono stati definiti, nella gestione di capitali e quindi soprattutto sul campo fiscale, e inoltre fornirà un certo numero di nomi, si parla di 250 nomi circa, di clienti americani di UBS che in effetti avrebbero non rispettato le leggi americane, quindi mettendosi sul terreno, ecco, della frode e forse anche dell'evasione fiscale. Questo è il punto, perché per la legislazione svizzera frode fiscale significa un certo tipo di procedimento e di assistenza o giudiziaria o amministrativa, evasione fiscale invece è un'infrazione amministrativa che sinora, ecco, non aveva dato adito a collaborazioni di tipo internazionali. Il confine tra le due cose è incerto a questo punto, e quindi quello che ci si chiede qui in Svizzera, e forse non soltanto qui in Svizzera, è se ci sarà un cambiamento della pratica, se non delle norme, quel che riguarda il segreto bancario con i suoi addentellati fiscali. E questo è un po' l'interrogativo di queste ore, si attendono maggiori ragguagli, non soltanto dall'UBS ma anche dallo stesso governo svizzero. E grazie a Lino Terlizzi, e comunque già questa è in qualche modo una piccola rivoluzione. All'estero restiamo, andiamo in Israele. Dove mancano poche ore alla formazione del nuovo governo, sentiamo. Bibi Netanyahu, primo ministro a capo di un governo formato dai tre maggiori partiti, Kadima, Likud e Israel Beitenu. È quanto ha chiesto al presidente Shimon Peres il leader del partito di estrema destra, Avigdor Lieberman, in un incontro molto atteso perché la posizione di Israel Beitenu, che alle elezioni ha guadagnato 15 seggi conquistando il terzo posto alla Knesset, pesa moltissimo nell'arena politica israeliana. Peres ha ripreso questa mattina le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo, che si concluderanno in serata. Il supporto di Lieberman a Netanyahu è condizionato alla formazione di un governo di coalizione che dia garanzie di stabilità. Ci sono tre possibilità, ha spiegato Lieberman a Peres: un governo di ampia coalizione, che è quello che vogliamo, un governo ristretto con il rischio di paralisi, che non vorremmo, e terza opzione, andare a nuove elezioni, che non porterebbe a nulla, ha concluso. Ora aumentano per il falco Bibi le chance di diventare premier a scapito di Tzipi Livni, che rivendicava la carica avendo ottenuto il suo partito un seggio in più rispetto al Likud. C'è il rischio ventilato da esponenti del partito di centro che Kadima vada all'opposizione. In questo caso Bibi rischia di non riuscire a governare. Da Gaza arrivano intanto pessimi segnali, due razzi e due bombe di mortaio, che però non hanno fatto vittime. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E alle 13.48 minuti le notizie di oggi. Finalmente libere le due suore italiane rapite a novembre. Erano state prelevate da un commando armato a El Wak, al confine con la Somalia. Rimanda le accuse al mittente il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Non penso di essere un corvo, ma anzi una delle poche che ancora crede che a fine 2009 si possa vedere un po' di miglioramento. Così ha detto questa mattina rispondendo al ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Il Partito Democratico verso la reggenza Franceschini. A decidere sarà l'assemblea costituente dei 3.000 che è convocata per sabato. L'ipotesi più accreditata è un congresso dopo il voto europeo. Con oltre 12 milioni di telespettatori e più del 41% di share, il festival di Paolo Bonolis tiene gli ascolti. E questa sera per Sanremo la terza serata. E diamo il buongiorno a Marta Cagnola. Siamo naturalmente approdati anche noi a Sanremo, Marta. Buongiorno da una Sanremo nuvolosa. Le nuvole ovviamente sono quelle atmosferiche, perché invece Paolo Bonolis, l'avete detto, bene, è molto sì. contento. È molto contento perché i numeri sono quelli che avete detto poco fa: oltre 12 milioni di telespettatori, più del 41% di share. Per darvi un dato, la concorrenza di Amici su Canale 5 ha raccolto solo 4.234.000 spettatori. L'anno scorso Pippo Baudo aveva avuto 10 punti percentuali di share in meno, quindi insomma Bonolis è molto contento. Contento anche perché ieri sera, lo sappiamo, non c'era Roberto Benigni, quindi lo spettacolo l'hanno fatto le canzoni. Però c'è anche un dato molto interessante, visto che stiamo ragionando di numeri, ed è un dato di marketing. Il direttore di Rai 1, Fabrizio Del Noce, ha detto che l'età media degli spettatori si è ridotta di un anno, il che vuol dire che gli spettatori del festival sono ringiovaniti. Come fanno a saperlo? Sono ringiovaniti. È insomma un dato di marketing molto complesso, ma sempre così estrapolato. Senti, ma un anno in meno, ma quanti anni? Questo mi stai facendo una domanda molto complessa. Insomma, io ti posso dire che gli spettatori sono più giovani, e l'analisi di marketing che è stata fatta è molto interessante, perché sono più giovani, ma significa anche che c'è più gente a casa, di età più diversa. Insomma, forse anche questo è il segno della crisi. Un po' di crisi. No, che insomma, alla fine il Festival di Sanremo è una certezza. Insomma, alla fine è una certezza italiana. C'è un dato, questo non è scientifico invece. Ci sono tantissime persone fuori dal teatro Ariston, proprio accalcate alle transenne, molte più degli anni scorsi, fin dai primi giorni. Io sono andata a fare un giro. Se volete, ascoltiamo un po' quello che mi hanno raccontato le persone questa mattina. E andiamo. Ci piace Sanremo. Ci veniamo spesso, approfittiamo anche del festival, certo. Di Mantova. Il festival di quest'anno come vi pare? Ma a me ieri sera mi è piaciuto tanto. Commentiamo e vediamo giornalisti vestiti anni 60 che sembrano un po' fuori dal mondo. La cultura anche, guardando. Katy Perry, vediamo se c'è ancora. Avete bigiato scuola? No, siamo in settimana bianca. Lei sta facendo foto col cellulare, come mai? Siamo a Simice, mi piace. Lei di Sanremo? No, Bergamo io. Siamo di Lecce. Chi volete vedere qui davanti all'Ariston? Adesso vorrei vedere Albano. Secondo voi verrà ripescato Albano? Speriamo. Di sì. Speriamo, se lo merita. Sì, mi è piaciuto, aspettavo proprio Masini, sono arrivato, l'ho visto lì, facciamo qualche foto e devo dire che la canzone più bella secondo me è quella di Francesco Renga e merita di vincere. Bravo. Poi... Voi di dove siete? Di Sanremo? Pavia. C'è un ascoltatore che parlava almeno uno di una canzone, perché qua parliamo di tutto, anche della musica. Tra l'altro ieri c'erano anche le nuove proposte, io ho sentito una canzone interessante che parlava di sincerità, ma non so, insomma, c'era qualcosa che ti ha colpito, Marta? Allora, le nuove proposte sono veramente molto carine. Devo dire che questa sera ci sarà sicuramente spettacolo, perché ogni nuova proposta sarà affiancata da un mentore, da un testimonial, e sono personaggi non trascurabili. Insomma, vi faccio qualche nome: Ornella Vanoni, Gino Paoli, Riccardo Cocciante, addirittura Bert Bacharach, Lelio Luttazzi, Pino Daniele. Insomma, saliranno insieme alle nuove proposte sul palco dell'Ariston e suoneranno anche qualcosa di loro, quindi insomma sono... Beh, insomma, un'altra serata che... Spettacolo anche stasera. Vedremo Bonolis che combina con gli ascolti. Grazie a Marta Cagnola. A domani. Ciao Marta. E termina qua questa edizione del GR Extra Large. In studio Alessio Maurizio e Anna Migliorati, al coordinamento Daniele Biacchesi, in regia Fabio Cantadori. Le 13:52 minuti 50 secondi in questo istante, vi ricordo solo ancora una volta la notizia arrivata proprio nel corso del nostro giornale: sono libere le due suore italiane che erano state rapite a novembre in Kenya. L'appuntamento con Extra Large domani a partire dalle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.